9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 11 ottobre e lasciate per un vecchio riflesso condizionato, ma credo anche per il bisogno di dare un senso a quello che facciamo e al senso di appartenenza a una comunità nazionale, che anch'io inizi questa trasmissione come la scansione dei giornali radio, l'avete sentita in apertura e in chiusura di oggi, dicendo a Gianmarco Manca, a Marco Pedone, a Sebastiano Villa e a Francesco Vannozzi, gli ultimi quattro caduti militari alpini del 7° reggimento della Julia, che ci stringiamo intorno alla loro memoria, alle loro famiglie, come a quelli di tutti coloro che sono caduti con la divisa italiana, l'adempimento di un dovere che continuiamo a chiedere a chi è in divisa di prestare, anche se poi scopriamo di volta in volta, tutte le volte che cade qualcuno e versa il suo sangue, lo dà per tutti noi, non certo per missione di cieco, autoritarismo, ma perché il nostro paese democratico, repubblicano, chiede loro di partecipare a coalizioni internazionali. Tutte le volte poi scopriamo che non sappiamo perché le mandiamo, ci dividiamo, polemizziamo. Mi chiedo sempre quanto sia giusto un prezzo così amaro a chi veste una divisa, quando poi si hanno le idee così incerte nel nostro paese su perché chiedere loro di versare questo sangue. Quindi solidarietà e onore a chi cade in questo modo, come a tutti coloro che naturalmente servono le istituzioni. Il tema di oggi è un tema che parte da un paradosso per trattare un sempiterno tema a questi microfoni. Voi lo sapete che io sono abbastanza dedito ad arare, controarare il tema dei paradossi del fisco, delle pretese esose del nostro erario e soprattutto a investigare tutte le minime pieghe di questa situazione per la quale ci si dice sempre che in realtà poi o per una ragione o per l'altra, o per una crisi internazionale o per la complessità dell'ordinamento, o perché a chiedere tutto e subito si è irresponsabili e si dimenticano i vincoli della coesione dei saldi della finanza pubblica da garantire in Europa, chi si mette troppo a chiedere un fisco diverso è un irresponsabile. Io non credo affatto che sia così, credo invece che queste siano tutte scuse dietro le quali una politica spesso compiacente, perché storicamente portata nel nostro paese in tutti gli anni, tutti tranne tre soli anni in cui cade la spesa pubblica in termini reali, in tutti gli altri la storia della Repubblica la spesa pubblica aumenta e la pressione fiscale si adegua di conseguenza. E allora io penso che tra coloro che ci dicono che a picchiar duro contro le paradossi e le contraddizioni del fisco per chiederne una riforma profonda, più basse aliquote mediane e marginali sul lavoro e sull'impresa e un ordinamento fiscale meno paradossalmente invasivo e ostile alla crescita, al lavoro, all'impiego del lavoro come all'offerta del lavoro, credo che si debba insistere. E allora oggi noi insistiamo partendo però da un caso che mi ha molto colpito, un caso che devo alla sensibilità e alla bravura di un collega del Sole 24 Ore che ce l'ha raccontato e se lo è fatto raccontare dal protagonista di questo caso pochi giorni fa. E quindi comincerei con Marco Bellinazzo, ringraziandolo, il collega del Sole 24 Ore, che è collegato con noi, sta venendo in studio. Buongiorno, buongiorno e grazie Marco. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti. Io siccome non so se stai guidando, quindi io non so se sei in condizione davvero di distrarti, perché tutto vorrei tranne che complicarti una giornata da questo punto di vista. Quindi se puoi parlare, ci puoi semplicemente dire come questo caso, di cui poi passeremo il microfono direttamente alla signora Elvia Moroni, ma come questo caso è entrato nel tuo mirino? Era una lettrice che ti ha mandato il suo caso personale? Oppure insomma c'è una così ampia scelta che alla fine è l'imbarazzo, lavorando al Sole, occupandosi di queste cose, per uno come te il problema è semplicemente quello di distinguere tra le migliaia di casi, ma in realtà il caso della signora Elvia, come ti si è presentato di fronte, Marco? Una semplice segnalazione dei tanti lettori che si sentono a torto qualche volta, ma spesso a ragione, vessati dal fisco, e che appunto ci segnalava questo caso paradossale, che a me sembrava veramente paradossale, al punto che sono stato, come dire, incuriosito e tentato di chiamarla. La signora è stata molto gentile, tra un po' la sentiremo, una chiacchierata che è un faro acceso sulle complessità e sulle pazzie del nostro sistema fiscale. Allora Marco, mentre noi ti aspettiamo qua in studio, passiamo direttamente a sentire dalla voce della signora Elvia Moroni, che ringraziamo perché insomma è un caso delicato. Puoi raccontare le proprie vicende personali quando si tratta di fisco eccetera, è sempre qualche cosa che nel riflesso condizionato degli italiani espone a un timore quasi ancestrale, perché il fisco, trattino, io ne so qualcosa visto quanto è travagliata la mia storia personale con l'erario, trattino, ricordo tutti coloro in ascolto che dalle mie due società e partita IVA quest'anno sto pagando il 66% sul totale del reddito lordo, una volta che sommo tutte le imposte che devo, IRAP, dipendenti e così via, quindi una bella percentuale, ammettetelo, è di quelle che proprio non dispone a un grande ottimismo nei confronti poi di ciò che il fisco in cambio mi dà e ci dà come cittadini, ma lo dico per aggiungere al mio pepe personale. Ma nel caso di Elvia Moroni è un caso che investe la storia di una vita, cioè delle scelte che hanno a che vedere con i momenti più delicati del passaggio, della formazione, dell'evoluzione del proprio sé. Però io voglio che racconti direttamente la signora Elvia, che ringraziamo di essere qua ai nostri microfoni, dopo il Sole 24 Ore, di rendere testimonianza anche alla radio del gruppo, in maniera tale da rendere il suo caso un esempio, niente più, ma insieme niente di meno che un esempio delle contraddizioni in cui si può risolvere il fisco italiano. Allora, buongiorno signora Elvia, grazie innanzitutto. Ci dice un po' il suo caso, in che cosa consiste il paradosso di un fisco che paradossalmente le dice: ma forse se ti separi dopo una vita intera, eccetera, eccetera, se ti separi ti tratto meglio che se resti con tuo marito. Di che si tratta di preciso, signora Elvia? Buongiorno. Buongiorno a lei Oscar Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E mi fa molto piacere avere l'opportunità di parlare di una categoria di cui nessuno si occupa, è quella delle sessantenni che, avendo lavorato alcuni anni, sono poi rimaste a casa ad occuparsi della famiglia, perché non è mai stato facile conciliare maternità e lavoro, ed hanno continuato con grandi sacrifici a versare contributi previdenziali per arrivare a una copertura minima di almeno 15 anni. Quando poi a 60 anni sono arrivate in dirittura di arrivo, purtroppo è stato loro detto che, avendo un coniuge con un reddito annuo lordo superiore a circa 17.000 euro, la loro mitica pensione di circa 500 euro sarebbe oscillata dai 100 ai 200 euro mensili. È stata, credetemi, una vera doccia fredda, perché persone che speravano di acquistare qualche libro in più, andare al cinema, ad un teatro con una facilità maggiore, si sono praticamente ritrovate in situazioni peggiori di quelle a cui appartenevano prima economicamente. Se costoro, con la pensione e, udite bene, la rendita catastale della casa di abitazione superano la mitica cifra di 2.840 euro lordi l'anno, non sono più considerate fiscalmente a carico del loro coniuge. No, ripetiamo la cifra, signora Elvia: 2.840 euro lordi 50. L'anno. Non so se è chiaro. L'anno, inclusa la rendita catastale della casa di abitazione. Ecco. Questa è veramente una condizione da paperone, proprio direi. Sì, veramente. Non sono più considerate fiscalmente a carico del coniuge, il quale paga subito circa 800 euro di tasse in più, perché non ha più una moglie a carico. Quindi anche lui contribuisce, diciamo. E il grave è che queste mogli praticamente sono incapienti, non pagano tasse e non possono neppure fare una dichiarazione propria dei redditi, quindi non hanno modo di scaricare ticket sui farmaci, ticket sanitari e quant'altro che le riguardano, ed è un'età questa in cui purtroppo oltretutto sappiamo tutti che le vicinanze con la sanità aumentano. E direi che una situazione veramente paradossale. Che si commenta da sola. Ma nel caso in cui? Nel caso in cui poi uno arrivi a 65 anni, dovrebbe essere esentato dal pagamento dei ticket sulle prestazioni sanitarie. Però a quel punto la moglie, che non è più a carico del coniuge, in un certo senso lo ridiventa, perché viene anche riconsiderato il reddito del marito se praticamente il tutto supera circa i 37.000 euro lordi l'anno. La povera tapina deve comunque pagare i ticket sanitari, che però in alcun modo non può detrarre. Quindi siamo veramente ad una trappola diabolica. Vi siete resi conto? Si sono abbastanza, spero, resi conto della situazione. Non resta che separarsi, vorrebbe da dire. Ecco, il consiglio è quello di fare una separazione consensuale sotto lo stesso tetto, e diciamo che costa circa 2.000 euro. Direi più che accettabile, perché praticamente in tal modo si riesce ad entrare in possesso di 500 euro mensili, che quindi ti ripagano anche abbastanza velocemente della spesa sostenuta. Però diciamocela tutta, dopo più di 40 anni di matrimonio è moralmente inaccettabile pensare di lasciare il nostro principe azzurro, che è un po' meno azzurro ma continua ad essere un principe. No, almeno signora, per me suo marito deve avere degli straordinari pregi per meritare, dopo tutti questi anni, ancora tutta questa dedizione da parte sua, perché a me è capitato diversamente, ma per colpa mia. Però senza entrare nel merito delle vicende personali, la signora vi ha raccontato con una delicatezza, veramente una maestria di cui io, che sono un po' più greve, non sarei capace. Il paradosso è uno stato che ti dice: invece di premiare il fatto che in 15 anni hai anteposto la famiglia e hai comunque continuato a versare i contributi, perché consapevole del fatto che solo così potevi avere la continuità contributiva per avere un rapporto previdenziale, io ti penalizzo perché non ti do i tuoi 500 ma te ne do 100 erotti, e dopodiché ti rendo incapiente, non puoi da questo punto di vista, quindi per la tua conduzione di coniuge a carico, scaricarti tutto ciò che sarebbe ragionevole invece che lo Stato inducesse a scaricarci, in un paese in cui i conti intergenerazionali non si sostengono, in cui abbiamo quindi crescenti problemi per un numero crescente di anziani, disabili, eccetera eccetera. Lo diciamo sempre, invece lo Stato continua nel triplo paradosso. Però in fondo, in definitiva, se divorzi e lo lasci tuo marito, ci guadagni. Quindi questo è il messaggio incentivo, separazione finta o vera che sia, ti mette in condizione di recuperare più di quello che ti costa davvero. È possibile sommare una condizione in cui tanti diversi aspetti dell'incapacità di questo sistema fiscale di vedere lungo e lontano sui conti intergenerazionali, di essere favorevole alla famiglia invece che ostile alla famiglia? È possibile mai che tutto questo veda come rimbalzo a chi chiede di prendere in mano queste questioni semplicemente un rinvio ai tempi lunghi, alla necessità dell'Europa, eccetera eccetera eccetera? Io credo di no. Io credo che sia stato veramente una bella giornata sabato, quando finalmente CISL e UIL sono scesi in piazza dicendo: meno tasse per il lavoro e per l'impresa, e il governo apra le orecchie, perché sennò ci siamo rotti le scatole. E non perché immagino che siano al fianco di chi vuole il taglio dell'aliquota marginale, la flat tax, eccetera eccetera, però penso che una storia come questa che ci ha appena raccontato Elvia sia una fotografia di fronte alla quale la risposta non può essere semplicemente rassegniamoci, perché adesso abbiamo ancora altri decenni dopo la crisi dell'eurodebito tra febbraio e maggio che ricomincia, al Fondo Monetario, il giornale di oggi, non ci siamo messi d'accordo sulla guerra delle valute e quindi noi non possiamo toccare niente della pressione fiscale e quindi noi non possiamo toccare niente delle caratteristiche fondamentali del nostro ordinamento. Perché quando, appunto, come racconta la storia di Elvia, su sostenibilità della previdenza, scelte pro o contro la famiglia. E l'effetto concreto di questo ordinamento è così paradossale, c'è da interrogarsi veramente a fondo. Chiediamo al professor Raffaello Lupi, che insegna tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, Tor Vergata, se è dal suo punto di vista un, come posso dire, un rassegnato realista di fronte agli argomenti di chi dice: bah, insomma, tutto sommato, se noi mettiamo mano all'ordinamento rischiamo di fare più danni che se invece accettiamo l'idea che ci vogliono anni e anni per cambiarlo. Perché bisogna essere così rassegnati e realisti invece che abbracciare un realismo che è quello di storie come quella di Elvia, che ci dicono che bisogna intervenire sui pilastri di fondo degli incentivi e disincentivi di un sistema così paradossale che dovrebbe indurre la gente a finte separazioni attraverso le quali si recupera un pochino di più di quello che lo Stato altrimenti indebitamente si prende. Lupi, che cos'è? Un realista che si è arreso lei? No, il questo, diciamo, la separazione sarebbe una specie di abuso del diritto, no? Ne abbiamo parlato in altre situazioni, che sarebbe una finta separazione di quelle che devono risultare alla burocrazia, in modo da riuscire a portarci a casa una situazione meno penalizzante di quella a cui la burocrazia ci condannerebbe. Sarebbe, noi siamo abituati all'abuso del diritto per le grandi società, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni. Questo sarebbe un micro abuso del diritto. Che c'è da fare? È evidente che la burocrazia, l'intreccio di tre soglie, perché qui abbiamo il reddito del marito, esatto, il reddito della famiglia e il reddito proprio, messe insieme hanno stridolato la povera signora, questo non, perché il reddito del marito è troppo alto per farle prendere la pensione, il reddito proprio gli fa saltare la soglia per essere a carico del marito, i ticket non si sa chi se li scarica, piccolo consiglio da consulente, se li scarichi suo marito, almeno quelli che non sono personali. Lei lo sa che però sull'attribuzione della personalità della detrazione l'agenzia sta iniziando a essere molto precisa nel rompere le scatole, io sì, lo so, perché a me personalmente quelli di mia madre mi hanno creato diversi problemi. Devo dirlo proprio. Ma che le hanno fatto il 36 ter, cioè la richiesta dei documenti? Bravo, mi hanno fatto il 36 ter. Sì, a me lo fanno tutti gli anni. E a me sta iniziando a diventare anche a me, quindi sa com'è, chi si occupa di queste questioni deve mettere in conto un'attenzione maggiore, diciamo così, sicuramente no, casuale, non figlia del... però insomma... Però io in queste considerazioni che faceva prima lei vedevo una specie di rapporto bilaterale fra lo Stato e la signora Elvira, cioè come se ci fosse davanti uno Stato cattivo che ha davanti solo la signora Elvira e non c'ha 30 milioni di famiglie e quindi è costretto nella sua rigidità burocratica. Io lo sapevo che lei lo giustificava alla fine. Non lo sto giustificando, mi faccio finire perché adesso arriva la coda, cioè tutte le volte che si parla di legalità, di regole, di timore della discrezionalità, noi stiamo dando da mangiare alla madre della burocrazia, che è il tiranno del terzo millennio, come gli antichi feudatari, le prepotenze, le vessazioni. Ci siamo. Io sapevo che... Per cui se ne fanno dice io che ci posso fare, allargo le braccia, le regole sono queste, signora avanti un altro, cioè l'aspirazione segreta del burocrate quando non può fare favori è di liberarsi della grana. Purtroppo in una situazione di quel tipo io mi comporterei esattamente come il burocrate, cioè abbiamo creato una società, cioè il socialismo reale, noi diciamo ci siamo molto vicini. Professor Lupi, lei mi fa andare in sollucchero oggi dicendo siamo vicini al socialismo reale, sono disposto a essere d'accordo con lei e anche a dire che la colpa è di Giulio Tremonti, non mi interessa, la situazione reale è questa. Anzi, però è una situazione tipica della cultura delle regole, della legalità, tu devi fare questo perché c'è il comma 2 che te lo dice, che poi rende alla lunga tutti schiavi di noi stessi. Esattamente. Cioè, il feticismo delle regole, nessuno è contrario alle regole, ma hanno ammazzato il buon senso. Allora, io intanto interrompo questa cosa che mi riempie di gioia assoluta, il professor Lupi, che dice che siamo un fisco da socialismo reale perché c'è la pubblicità. Intanto Marco Bellinazzo ci ha raggiunti, e devo dire che sono molto colpito dalla quantità di sms che stiamo ricevendo dai nostri ascoltatori, che io temevo che la fedeltà nel nostro paese fosse il vero problema che non fa stare in piedi i matrimoni, la fedeltà un po', insomma, per così dire, non proprio solida come ai tempi di mia madre, ma devo dire che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma una dozzina già di messaggi di ascoltatori che ci dicono di avere con il commercialista, con il pieno consenso della moglie, in atto riflessioni approfondite per separazioni di comodo fittizie, per riprendersi qualcosa che lo Stato dà. Quindi questo non è solo nella storia delicata che Elvia ci ha esposto come se trattasse una persona terza, io l'ho molto ammirata per questo, ma tantissimi di voi stanno considerando questo bell'istituto. Alcuni ho anche sospetto che lo facciano perché così pensano di avere una buona ragione che la moglie possa condividere, mentre in realtà mi pare che in realtà siano altre le ragioni. Ma comunque questo sta a voi coniugi a casa, sorvegliare sul vostro maritino, la vostra mogliettino. Io, come è noto, questo guaio almeno non ce l'ho. Pubblicità. Eccoci tornati in studio sui paradossi del fisco. Abbiamo sentito il caso della signora Elvia Moroni, il caso portato sulle colonne del Sole qualche giorno fa dal bravo collega del Sole Marco Bellinazzo. Abbiamo sentito il professor Lupi, che ci ha detto dei paradossi del formalismo del sistema tributario. Con Marco Bellinazzo, che nel frattempo ci ha raggiunto, ripartirei da un paradosso aggiuntivo. Non c'è solo l'effetto concreto nel triplice livello che ci ha spiegato Elvia come percettore discriminato di una rendita previdenziale, come soggetto discriminato per via del reddito del marito, è incapiente per di più per scalarsi le spese sanitarie. C'è un apparente paradosso tra chi alla testa politicamente del governo dice adesso, uno dei 5 punti toccati in Parlamento è stato: andiamo verso il quoziente familiare, vedrete alla fine della legislatura il cantiere fiscale promesso da Tremonti. Berlusconi usa sempre parole un po' più stringenti, Giulio Tremonti resta molto più prudente nel valutare l'effetto poi di questo cantiere fiscale che ci consegnerà, ma insomma Berlusconi ha parlato esplicitamente di quoziente familiare. E invece Bellinazzo, se andiamo a vedere davvero quello che poi c'è nella pipeline concreta delle norme fiscali, il redditometro, che diventa sempre di più rispetto agli studi di settore, diventa lo strumento sul quale poi si misura davvero la capacità contributiva del contribuente, che effetti paradossali avrà? Di essere più favorevole alla famiglia o ancora una volta di essere un pochino paradossalmente ancora più pesante, Marco? Beh, se stiamo a quello che dice l'Agenzia delle Entrate, che sta preparando questo nuovo strumento che sarà applicato dall'anno prossimo, dovrebbe essere più favorevole alla famiglia. Se guardiamo invece ai numeri e ai target che sono stati fissati, 10 miliardi in più di recupero dall'evasione fiscale e dalla tax compliance, ma sai, quando io comincio a sentir parlare in inglese sento sempre puzza di bruciato, questa tax compliance, questo adempimento spontaneo, forse tanto spontaneo potrebbe non essere. Quindi nel dato dei fatti, per come potrebbe essere costruito questo strumento, si potrebbe arrivare all'effetto paradossale invece di avere una penalizzazione della famiglia. In sostanza, visto che il redditometro non fa altro che misurare quanto si è speso in rapporto a ciò che si è dichiarato, e quindi valutare se quello che è stato dichiarato è congruo rispetto alle spese che si sono sostenute, si potrebbe arrivare, dicevo, all'effetto paradossale di considerare chi ha più figli e quindi deve mantenere un tenore di vita più alto per mantenere i figli, dovrebbe dichiarare di più e quindi essere accertato qualora invece si risulti che dalla dichiarazione un reddito più basso. Per il momento si tratta di ipotesi allo studio dell'agenzia, l'agenzia non conferma, ma noi vedremo, insomma. Vedremo, diciamo che noi siamo abbastanza sospettosi, ecco, noi che per mestiere ci occupiamo di questo, non perché ci sia un partito politico, una visione di un'altra. Per mestiere bisogna diventare esperti nell'arte di distinguere ciò che viene dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, dall'apparato fiscale amministrativo del nostro paese, dagli effetti concreti in cui quelle norme di socialismo reale, parole del professor Lupi, non di Giannino, poi in concreto che effetto hanno, e l'effetto talvolta è molto lontano, è molto diverso da quello dichiarato. Ci ha raggiunto il presidente del forum dell'associazione familiari, Francesco Belletti. Grazie a Belletti, e gli chiedo un giudizio rispetto a questa condizione che in concreto vede il nostro ordinamento tributario esercitare sulla famiglia la pressione più elevata senza dubbio tra tutti i grandi paesi dell'Europa continentale, e non stiamo parlando di paesi appunto che caratterizzati da una flat tax, da un'aliquota bassa o bassissima di convergenza piatta sui redditi sia delle persone fisiche che dell'impresa, stiamo parlando di paesi che sono tutti ispirati a forte progressività, cioè la Francia, la Germania, eppure è noto che quoziente familiare o non quoziente familiare, splitting e non capacità contributiva esclusivamente individuale, come nel nostro ordinamento per una nota sentenza di decenni fa, l'effetto concreto è che in Germania e in Francia, a parità di reddito e a parità di numerosità di famiglia, si paga molte meno tasse in Germania e in Francia, con effetti inevitabili sul tasso di sostituzione demografico, sulla formazione del capitale umano dei figli, sulla possibilità di accumulare rendite previdenziali e sanitarie integrative private per quando poi cresceranno. Tutto questo passa per un fisco più ostile alla famiglia. Anche se poi siamo il paese familista per eccellenza, con bassa mobilità perché papà e mamma vogliono i figli e le figlie e viceversa, eppure i figli vogliono stare vicini a papà e mamma, eppure lo Stato si è organizzato evidentemente, vi sa così coesi, scusatemi la battuta, che dice ah sì, io vengo a prendere dove si trova facilmente, cioè nelle vostre tasche. Che si può fare, Belletti, se si vuole partire dall'idea che non bisogna rassegnarsi al realismo burocratico così descritto dal professor Lupi, si può pensare davvero che le promesse di oggi di un'attenzione verso il quoziente familiare possano farci fare qualche passo avanti meno disperato della condizione della signora Elvia? Ma noi siamo costretti ad essere ottimisti, nel senso che la situazione è quella di chiedere finalmente qualche cambiamento. La Corte Costituzionale, nella sentenza che lei ricordava, diceva non possiamo tassare il nucleo familiare perché la tassazione è individuale, però non dobbiamo penalizzare le famiglie. Questo però è rimasto sospeso. Abbiamo vissuto di rendita sulla capacità di tenuta delle famiglie. Oggi il fisco nazionale è iniquo nei confronti delle famiglie. Non è che bisogna chiedere privilegi, bisogna chiedere la giustizia. Posso chiedere a Belletti una cosa? In Germania, in definitiva, ciò che ha indotto ad abbassare il prelievo fiscale di quasi 6 punti prima, negli anni prima della crisi, e la spesa pubblica in conseguenza, perché quelli sono rigorosi, è stato proprio il ricorso che anno dopo anno, per molti anni, associazioni di famiglie, erano più luterane che cattoliche in Germania, hanno, poiché lì è possibile promuovere un giudizio di incidentalità diretta da parte dei cittadini, a differenza che nel nostro ordinamento in cui serve un giudice a quo che ponga un problema su una legge della Corte Costituzionale, però lì le associazioni di famiglia iniziarono a chiedere alla Corte di Karlsruhe l'equivalente in quell'ordinamento della nostra Corte Costituzionale su questo o quel prelievo fissato dallo Stato centrale, dai Länder o dalle municipalità, dicendo no, troppa pressione fiscale, questa tassa è incostituzionale perché viola quel soglia minima intangibile di reddito personale e familiare che è al centro della nostra Grundgesetz, della nostra legge fondamentale, fino a che a un certo punto la Corte di Karlsruhe diede ragione a un ricorso, e questo principio che si chiama Familia Minimum Prinzip, rimesso al centro dell'ordinamento germanico, ha costretto di anno in anno il Bundestag ad alzare la soglia, il tetto intangibile di reddito personale e familiare, e questo ha portato giù le tasse in Germania. Quindi chiedo a lei, si può immaginare un percorso quindi di protesta ma nella legalità che chieda attraverso giudizi incidentali, chiedendo l'incostituzionalità di questo o quel prelievo, che qualche giudice degli 8.000, ce ne sarà uno che la pensa così, capace di porre il problema alla Corte, e anche se la Corte dica di no, di fare qualche cosa di simile alla via tedesca? Oppure è impensabile, Belletti, è una strada troppo idealistica, c'è un giudice a Berlino, no? Insomma, non siamo abituati a vederla così. Secondo me si può fare. Noi per adesso abbiamo proposto nel dibattito sulla riforma un sistema simile a quello tedesco, che è il fattore famiglia. Anche noi chiediamo una no tax area familiare che rispetti l'articolo 53 della Costituzione, che dice che ognuno contribuisce secondo la sua capacità contributiva. Se uno ha 4 figli deve mantenerli, è tenuto per legge a mantenerli. I soldi che spende per i figli non devono essere tassati. Ora noi crediamo che questo periodo sia un'opportunità, perché si può discutere di riforma fiscale. Noi vorremmo che tra le tante dimensioni di equità e di buon funzionamento ci sia il criterio famiglia, equità fiscale, soprattutto sulle nuove generazioni, sui figli, perché è proprio una sfida di sistema paese. Sentiamo un secondo il professor Lupi. Secondo lei questa via della protesta legalitaria e di mettere una soglia per diritto naturale, per così dire, intangibile rispetto alle pretese dell'ordinamento, è una via un po' troppo da filosofia del diritto rispetto alle concrete esigenze dello Stato affamato di entrate per l'equilibrio dei conti? No, ma non è la fame di entrate, è che non esiste da nessuna parte un dato verificabile come la capacità contributiva globale, cioè il reddito esprime una parte solo del patrimonio, può essere che uno abbia un reddito basso e tanti soldi in banca, appartamenti, è un ricco patrimonio, che certo. Non si vedono, quindi è difficile riuscire a tener conto, bisognerebbe varare al posto di questo fantomatico reddito IRPEF qualcosa tipo l'ISAE, dove ci sono dentro anche gli altri indicatori, ma poi chi lo controlla? Siamo sempre lì, la burocrazia, poi si deve alzare dall'ufficio e venire a vedere se quello che ho dichiarato nell'ISAE, indicatore sostitutivo di capacità economica o come si chiama, quello che si fa per le università, per la social card, se poi funziona, e siccome la burocrazia tendenzialmente vuole stare in ufficio, non ama andare a fare domande. Però oggi la sento aggiungere scetticismo a scetticismo, perché lei ha ragione, quindi? Quindi bisogna cominciare a far lavorare, bisogna cominciare a pensare che che non si risolvono le cose facendo in gazzetta ufficiale il solito proclama da difendere in conferenza stampa, cioè la legge è quella che gestiscono in concreto i vari settori dell'organizzazione pubblica, i vari segmenti della burocrazia, cioè la burocrazia, il tratto distintivo fra noi e la Germania è che lì la burocrazia funziona perché c'è più flessibilità. C'è più auto-organizzazione. C'è più auto-organizzazione, questo non c'è dubbio. È esattamente così, è la mia stessa esperienza per quello che conosco dal di dentro dell'ordinamento tedesco. La nostra rigidità amministrativa, delle norme, eccetera, eccetera, in realtà è una delle principali ragioni ordinamentali dell'inefficienza. Sono molto d'accordo con questa, che vi potrà sembrare a chi è in ascolto rispetto a ciò di cui stiamo parlando, magari una considerazione un po' non troppo centrata rispetto al merito di come funzionano sulla famiglia, i figli, le aliquote. Invece no, la rigidità dell'ordinamento è proprio una delle ragioni per cui ha questo effetto. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con qualche telefonata di ascoltatore. Eccoci tornati in studio, sentiamo l'esperienza di qualche ascoltatore. Nel frattempo sono infittiti i messaggi, c'è chi dichiara di separarsi non solo per casi come la signora Elia, ma per tantissime altre ragioni fiscali e amministrative. Io naturalmente devo dirvi che naturalmente siete soggetti poi ad accertamenti ulteriori, se risulta che poi la separazione è del tutto fittizia, i guai si moltiplicano, quindi state attenti, cercate di litigarci un pochino per finta ma anche un po' sul serio, perché sennò la cosa è diventata perseguibile in sensi poi di legge civile e penali, state attenti. Allora sentiamo alcuni che ci hanno chiamato, cominciamo dall'esperienza di Antonio dalla provincia di Padova, prego Antonio. Nessuna particolare esperienza, la domanda era... Rincuoriamo la moglie in ascolto. No, sono divorziato già da tempo, ma non per questi motivi purtroppo. Ma a parte questa cosa, volevo solo chiedere, ma oggettivamente non sarebbe molto più semplice porre di fronte al contribuente l'opzione? Mi spiego meglio, se a un certo punto la copertura finanziaria è quella che sembra spaventare la politica, no? Ma nel momento in cui poi alla fine la separazione viene effettuata, la copertura finanziaria bene o male si deve trovare, giusto? Allora la domanda è, ma nel momento in cui ho un'opzione fra un reddito che viene calcolato sulla base di una sommatoria, quindi un reddito familiare o meno, io potrei eventualmente, cioè l'uovo di Colombo sarebbe fai l'opzione, se la soluzione economica più favorevole a te è quella, pur mantenendo il tuo matrimonio, di pagare naturalmente meno tasse e di avere accesso a quei diritti che sono fondamentali, basta semplicemente. Cioè, il problema di copertura finanziaria sarebbe equivalente a quello che io domani mi separo e basta. Certo, Antonio dice sì, qui in teoria non bisogna mai mettere mano a riforme che aumentino la necessità di copertura, in pratica se i contribuenti facessero tutti la scelta paradossalmente illustrataci dalla signora Elvia, poi dovrebbero comunque, perché l'ordinamento deve trovarlo. attento, attento Antonio, che l'esperienza nostra è, per esempio, le sentenze della Corte Costituzionale, sentenze interpretative che 20, 25, 30 anni fa estesero i trattamenti previdenziali che erano solo riservati ad alcune categorie, ad alcune corde, li estesero in generale nel nostro paese, contribuendo potentemente all'esplosione del debito pubblico, insegna che poi c'è anche una copertura in deficit e in debito, quindi non è detto. Qui il problema è trovare una copertura a saldo zero, a saldo che rimane invariato e che ci faccia rispettare il programma di rientro europeo, perché altrimenti fare deficit, noi il debito così lo abbiamo accumulato anche. Sentiamo l'esperienza di Luciano che ci chiama da Roma. Prego Luciano. Buongiorno, no, volevo soltanto fare un... Lei cos'è, separato, sposato? No, no, io sono sposato, non intendo separarmi, quindi non ci penso proprio. Volevo soltanto dire una cosa, che questo problema non è che esiste da adesso, esiste da diversi anni. Come no? Esiste da diversi anni, da moltissimi anni, se non che è esploso anche, secondo me, nell'anno in cui è stata istituita la pensione di vecchiaia. Certo. La cosiddetta pensione a contributi zero, no? Per i 65 anni donne e 70 anni uomini. Quindi anche in quel caso, così dal mio punto di vista, di osservazione, magari un po' privilegiato, ho osservato. Perché ha un osservatore privilegiato? Diciamo che svolgo attività commerciali. Quindi volevo soltanto dire che con un ritardo un pochettino enorme, se vuoi, no? Questa trasmissione si sarebbe dovuta fare insomma 4, 5, 6 anni fa. Forse... Lei ha ragione, io ne faccio spesso e mi batto perché chi, come per esempio il Comune di Parma, la rete di comuni impegnati nel quoziente familiare, diventi un'esperienza sempre più estesa. Naturalmente significa che poi gli oneri aumentano, ma io quello che contesto è che si possa davvero credere che un paese che ha i problemi evidenti, che al nostro, possa andare avanti per scelte lineari. Bisogna riallocare minor spesa pubblica, molta minor spesa pubblica in termini reali, su poste prioritarie. Questo significa avere l'idea di come si fa crescere di più un paese, facendo rimanere coeso e con un occhio ai conti intergenerazionali. Chi dice non si può perché c'è più deficit, qualunque cosa si tocchi, ha l'idea che sia possibile invece farlo rimanere inerzialmente lineare e che questo poi, non si sa per quale ragione rispetto alla bassa crescita, col tempo i problemi si ridimensionano. Col tempo non si ridimensionano, visto l'elevatezza dell'intermediazione pubblica del reddito nazionale su una crescita attuale e attesa che resta molto bassa. Sentiamo Stefano da Modena, che pensa Stefano? Sì, buongiorno, la ringrazio per questo intervento, ma guardi, il tema è l'austerità che ha richiamato il governatore Draghi. Io penso che prima di parlare di, come si dice, di parlare di ridurre le tasse, bisogna fare i conti a casa propria e quindi bisogna essere austeri. E come allora si fa l'esempio della Germania, ma noi purtroppo non siamo come la Germania. E ho capito, ma siamo sempre diversi. Stefano, ma che vuol dire? Mi spiega, adesso io non voglio arrabbiarmi e spero a movimentare. Quando lei dice non siamo la Germania, certo siamo l'Italia, ma dove sta scritto? Noi aspetti, nel 60 la somma di imposte e contributi sul lavoro in Italia era pari a 26 punti, non a più di 50 come oggi. Cioè non è che ci abbiamo nel DNA una storia per la quale c'è lo stato etico sempre. Non è vero, noi il boom l'abbiamo fatto dal 45 al 60 perché non c'era tutto sto cacchio di stato tra i piedi inefficiente. È così, cioè, non solo perché c'era il basso costo del lavoro, certo c'era un basso costo del lavoro, ma il problema è che c'era un'intermediazione molto più bassa. Però l'ho interrotta, prego Stefano, continui. No, io quello che volevo dire è che noi non è che non possiamo prendere esempio dalla Germania. Purtroppo io in Germania ci vado spesso e trovo che sia un paese dove la ricchezza dei cittadini viene perseguita, così come l'Inghilterra. Ma ci vuole gente seria per fare cose di questo come, tipo. Come vuol dire viene perseguita? Viene perseguita nel senso che viene rispettata la famiglia, vengono rispettati il numero di... Io ho tre figli, io pago le tasse come un single. No, ma perseguita nel senso... Ah, quindi viene incentivata a essere viene raggiunta per questo, perché perseguita certo. Così sembrava perseguitata. Invece no, scusi. No, è un'anfibologia del verbo, come si dice in termini quindi va bene. Esatto, in senso positivo. Ora, in questo paese così non è, perché non c'è la voglia di farlo, perché secondo me non ci sono gli strumenti per poterlo fare. Draghi no, Stefano, guardi, io rispetto il suo punto di vista, ma io non ci sto a fare il rassegnato, non ci sto. Colleghi come Bellinazzo, tutto il gruppo, il Sole 24 ore, eccetera eccetera, c'è per dare a tutti gli strumenti, alle professioni, alle imprese, ai lavoratori dipendenti, agli autonomi e alle classi dirigenti di tutti i tipi, compresa la politica. Il senso invece è che, analizzando le norme, studiandone le conseguenze, facendo parlare i cittadini come Elvia Moroni, che ancora ringraziamo, che sono il paradosso vivente di che cosa significa un ordinamento ad alte richieste in termini di aliquote medie, mediane e marginali, e paradossale nei suoi effetti concreti, perché scoraggia la domanda e l'offerta di lavoro, scoraggia l'accantonamento di strumenti integrativi, individuali, sanitari e previdenziali, il fatto dei soldi dei vostri figli di cui c'è bisogno perché l'istruzione pubblica non è più in grado di dare ciò che serve nel nuovo mondo. Tutto questo noi lo facciamo con la speranza che poi, voi la pensiate politicamente in un modo o nell'altro, capiate che chi vi dice che non si può cambiare mente. Questa è la mia conclusione, non la metto in bocca al professor Rupi, che però mi ha fatto felice con questa descrizione oggi kafkiana e burocratico-sovietica del nostro ordinamento. Appuntamento a presto con Marco Bellinazzo, che ringrazio per il lavoro che fa lui e tutti i suoi colleghi del Sole 24 Ore ogni giorno. Grazie Marco. Grazie a voi. Alla signora Elvia Moroni, che ringraziamo per la linearità con cui sembrava stesse parlando di una persona terza e non della storia della sua vita. Non si separi, lo dico a nome di suo marito. Grazie al professor Lupi e grazie a Francesco Belletti. L'appuntamento a domani. No allo Stato corruttore dal fisco esoso. Questa è la mia conclusione abituale. A domani.